Guai ai figli ribelli, oracolo del Signore, che fanno progetti che non vengono da me, si legano con patti non ispirati da me, così che peccato si aggiunge a peccato. Partono per discendere in Egitto senza consultare la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del Faraone e per ripararsi all'ombra dell'Egitto. Ma la protezione del Faraone sarà la vostra vergogna, ed il rifugiarsi all'ombra dell'Egitto sarà la vostra confusione. Poiché i suoi inviati sono andati a Tanis, ed i suoi messaggeri hanno raggiunto Anusis. Tutti saranno delusi da un popolo inutile, che non è per loro né di aiuto né di utilità, ma di vergogna e di ignominia. Oracolo sugli animali del Negev. Nel paese della tribolazione e dell'angoscia, della leonessa e del leone ruggente, della vipera e del dragone volante, trasportano sul dorso degli asini le loro ricchezze e sulla gobba dei cammelli i loro tesori a un popolo inutile. L'aiuto dell'Egitto è vano ed inutile, perciò lo chiamo Raab a riposo. Ora vieni, scrivi questo su una tavola davanti ad essi, scrivilo in un libro, affinché rimanga per il futuro una perpetua testimonianza. Perché è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti, non abbiate visioni, e ai profeti, non profetateci il vero, diteci cose piacevoli, profetateci cose fallaci, ritraetevi dal sentiero, stornatevi dal cammino, fate sparire davanti a noi il Santo di Israele. Perciò così parla il Santo di Israele. Giacché voi ripudiate questo oracolo, confidate in ciò che è perverso e tortuoso, e vi appoggiate su ciò, perciò questa colpa sarà per voi come una breccia cadente che fa rigonfio un alto muro, il cui crollo avviene subito, in un istante. La sua frattura sarà come quella di una giara di vasaio, frantumata senza pietà, senza che si possa trovare tra i suoi frammenti neppure un coccio con cui prendere fuoco dal focolare o attingere acqua dalla cisterna. Perché così parla il Signore Dio, il Santo di Israele. Nella conversione e nella calma sarete salvi. Nella perfetta fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto, anzi avete detto, no, noi fuggiremo su cavalli. Ebbene fuggite dunque. Cavalcheremo su veloci destrieri. Ebbene più veloci saranno i vostri inseguitori. Mille si spaventeranno davanti alla minaccia di uno solo. Davanti alla minaccia di cinque voi fuggirete, finché rimarrete come un'antenna sulla cima di un monte e come uno stendardo su una collina. Eppure il Signore attende di farvi grazia. Perciò Egli si erge per avere pietà di voi, perché il Signore è un Dio giusto. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Sì, popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, non verserai più lacrime. Ti farà grazia al grido della tua supplica. Quando udirà, ti risponderà. Il Signore vi darà il pane della tribolazione e l'acqua dell'oppressione, ma il tuo maestro non rimarrà più nascosto, e i tuoi occhi vedranno il tuo maestro. Le tue orecchie udiranno dietro a te una parola che dice: questo è il cammino, seguitelo, quando dovreste andare a destra o a sinistra. Tu considererai come impuri i tuoi idoli rivestiti d'argento ed i tuoi simulacri ammantati d'oro. Tu li rigetterai come un'immondezza, dicendo loro: fuori. Egli concederà la pioggia per il tuo seme che avrai seminato nel suolo. Il pane, frutto della terra, sarà pingue e succulento. Il tuo bestiame pascolerà in quel giorno su una vasta prateria. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno una biada salata, ventilata con la pala e il ventilabro. Su ogni alto monte e su ogni collina elevata vi saranno dei ruscelli e dei corsi d'acqua nel giorno della grande carneficina, quando cadranno le torri. Allora la luce della luna sarà come quella del sole, e la luce del sole diventerà 7 volte più potente come la luce di 7 giorni, nel giorno in cui il Signore fascerà la piaga del suo popolo e guarirà la ferita dei suoi colpi. Ecco, il nome del Signore viene da lontano. Ardente è la sua ira, pesante il suo carico. Le sue labbra sono piene di furore. La sua lingua è come un fuoco divorante. Il suo soffio è come un torrente straripante che giunge fino al collo per vagliare le nazioni con un vaglio annientatore e con un freno insidioso posto nelle mascelle dei popoli. Il vostro canto risuonerà come la notte in cui si celebra la festa. La gioia del cuore sarà come quando si parte al suono della musica per recarsi al monte del Signore, alla rocca d'Israele. Il Signore farà intendere la sua voce maestosa e mostrerà il suo braccio che colpisce nel furore della sua ira, nella fiamma del fuoco divorante, nell'uragano di pioggia e pietre di grandine. Perché la Siria tremerà alla voce del Signore, che la percuoterà con la verga. Ogni passaggio della verga sarà punizione che il Signore le farà piombare addosso. Fra tamburi e cetre, con combattimenti a mano alzata, egli combatterà contro di lei. Poiché è pronto da tempo il rogo, esso è pronto anche per il re, è profondo e largo. Il fuoco e le legna abbondano. Il soffio del Signore, come torrente di zolfo, lo accenderà.